Hashtag Autotrasporti. Hashtag Autotrasporti, buon pomeriggio da Andrea Ferro. Oggi ci occupiamo di sicurezza stradale con la nuova campagna del Ministero dei Trasporti che ha preso il via in questi giorni e dei nuovi corridoi doganali veloci di Genova e Livorno e del progetto della Cispadana, una nuova autostrada sull'asse Parma-Ferrara. In Italia, secondo i dati Istat del primo semestre 2015, il numero degli incidenti stradali è in calo, sono diminuiti anche i feriti, ma le buone notizie finiscono qui, perché contemporaneamente è aumentato il numero dei morti, più 1%, un dato per la prima volta in controtendenza dal 2001, infatti l'indice di mortalità era in calo. Diventa così alquanto difficile raggiungere l'obiettivo dichiarato dall'Unione Europea, che prevede di dimezzare nel 2020 le vittime della strada rispetto al numero registrato nel 2010. C'è da aggiungere che pochi giorni fa, con la firma del Presidente della Repubblica, il reato di omicidio stradale è diventato legge. In questo contesto si inserisce la campagna sulla sicurezza stradale avviata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Si intitola Sulla buona strada, 5 spot per richiamare l'attenzione su 5 norme del codice della strada che vengono violate con una certa frequenza al punto da essere la causa di incidenti gravi. I comportamenti scorretti stigmatizzati in questi spot sono cinture non allacciate, l'uso del telefonino, velocità e mancanza di attenzione verso gli altri utenti della strada, i bambini non assicurati ai seggiolini, andare in bicicletta senza luci. Al microfono di Hashtag Autotrasporti, il ministro Graziano Del Rio ci spiega il senso e l'urgenza di questa campagna. Abbiamo bisogno di tornare a essere attivi su questo argomento, perché purtroppo negli ultimi mesi si è registrato, specialmente nell'ultimo anno, un aumento della mortalità dopo tanti anni in cui avevamo osservato una diminuzione. E la mortalità dipende, e anche gli incidenti dipendono da noi, sono assolutamente una nostra responsabilità e quindi i nostri comportamenti determinano un pericolo per le vite nostre e degli altri. Rispetto ad altre campagne dedicate alla sicurezza, questa si caratterizza per contenuti decisamente più forti, più diretti. Una comunicazione di questo tipo si era vista già all'estero, per l'Italia si tratta invece di una novità. Evidente l'obiettivo di inviare un messaggio più efficace soprattutto ai giovani. Anche per questo la campagna è sbarcata sui social. Sentiamo ancora Del Rio. Sì, vogliamo essere più diretti perché gli incidenti stradali sono la prima causa di morte tra i giovani, appunto, e quindi perdiamo i nostri figli, perdiamo le persone a cui vogliamo bene, e tutto dovuto al fatto che non osserviamo delle regole elementari, poco costose, poco impegnative. Penso ad allacciarsi le cinture, sia anteriori che posteriori. Teniamo presente che sta avvenendo una diminuzione nell'utilizzo delle cinture, quindi non bisogna mollare la presa, bisogna continuare invece a essere attenti su questo punto. Il tema della distrazione alla guida, oltre alle cinture, è un'altra causa molto importante di incidenti. E il tema di salvaguardare gli utenti più deboli, a partire dai nostri bambini, che vanno assicurati ogni volta, i bambini piccoli, ai seggiolini in maniera corretta, e vanno difesi gli utenti deboli, cioè pedoni e ciclisti. Tutto questo è possibile grazie a comportamenti semplici che costano poco, ma che rendono molto perché restituiscono la vita ai nostri giovani. In una trasmissione dedicata al mondo dell'autotrasporto, al ministro Del Rio non potevamo non chiedere degli incontri avviati con le associazioni in vista del varo dei decreti attuativi relativi ai provvedimenti inseriti nella legge di stabilità. In ballo ci sono questioni cruciali per il comparto. Abbiamo già ricominciato i contatti, le prime riunioni sono molto positive perché abbiamo messo subito a disposizione tutte le nostre energie per regolamentare le misure che abbiamo stabilito in legge finanziaria, e quindi sul ferro bonus, il mare bonus, c'è una buona collaborazione nella lotta al cabotaggio abusivo e quindi credo che il tavolo stia già cominciando a dare dei buoni frutti. E torniamo a parlare di Fast Corridor, i corridoi doganali veloci lungo i quali le merci scorrono una volta sbarcate nei porti, abbattendo costi e tempi e comunicando direttamente attraverso il cosiddetto Internet delle cose. Una svolta tecnologica e normativa decisiva per imprimere competitività al nostro sistema logistico. Nei giorni scorsi è stata inaugurata la tratta intermodale del corridoio Genova-Rivalta-Piacenza utilizzato da IKEA. Le merci viaggiano in treno fino a Rivalta e poi proseguono su gomma. Un altro corridoio doganale veloce è stato inaugurato di recente tra il porto di Livorno e l'interporto Vespucci di Guasticce. Il presidente dell'autorità portuale di Livorno, Giuliano Gallanti. La merce arriva nel porto di Livorno e prosegue fisicamente fino all'interporto, dove viene lì collocata in un'area riservata e solo in quella sede sdoganata. In parole povere è come se fosse un allargamento con un nuovo terminal virtuale del porto di Livorno, che viene collegato questo retroporto al porto vero e proprio, fisicamente con il mezzo che trasporta la merce lì, e dal punto di vista telematico viene sorvegliato minuto per minuto, lo sdoganamento avviene praticamente all'interporto Vespucci. Per il porto di Livorno è una grande opportunità, ripeto, perché amplia le possibilità di stoccaggio della merce e le consente lo sdoganamento in una zona diversa da quella che è la circoscrizione portuale. Per il porto di Livorno l'inaugurazione del Fast Corridor è un passaggio ulteriore per il rilancio dello scalo. Ascoltiamo ancora Gallanti. L'obiettivo finale che abbiamo è addirittura quello di arrivare a una zona franca. Oggi c'è la solo Trieste. È contenuto questo idea della zona franca nell'accordo di programma che abbiamo firmato che riguarda la Darsena Europa, ma già così, mettendo assieme Darsena Europa, il collegamento ferroviario che sta per essere ultimato tra le banchine e la linea diretta, il retroporto collegato per ferrovia dopo lo scavalco diventa una base logistica con appunto col corridoio doganale per di più che consente le operazioni al retroporto non semplicemente in banchina, diventa una base logistica molto articolata di cui il porto è elemento essenziale ma gli altri sono elementi fondamentali, la ferrovia e il retroporto sono ormai le carte vincenti nella sfida portuale. E parliamo ora del progetto della Cispadana, l'autostrada che collegherà Ferrara a Parma. Nelle scorse settimane il governo ha approvato un atto che supera il dissenso espresso dal Ministero dei Beni Culturali nell'ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale. Al nostro microfono l'assessore regionale ai trasporti dell'Emilia-Romagna Raffaele Donini sottolinea l'importanza strategica della Cispadana. È un'autostrada che avrà la funzione, diciamo, di collegamento est-ovest del quadrante nord della regione Emilia-Romagna, che è una funzione strategica sia per la mobilità sia per la competitività del territorio, perché sarà sostanzialmente un'autostrada di collegamento tra la A22 e la Ferrara Mare, passerà attraverso territori del Parmense, del Reggiano, del Modenese e del Ferrarese. Molti di questi territori, peraltro, hanno avuto nel 2012 quel terribile evento calamitoso del terremoto, quindi è anche una opportunità per i distretti artigianali industriali presenti in quei territori di poter sperare in una prospettiva di competitività. Ma quanti quattrini occorreranno e una volta avviati i lavori, entro quanto potrà essere completata l'opera? Ancora Donini. Cispadana costa circa 1.300 milioni, è un project financing, ovviamente misto, nel senso che la regione ha accantonato 179 milioni a bilancio e poi ovviamente una volta prodotto il piano economico finanziario chiederemo ovviamente allo Stato di assumersi questo tipo di responsabilità per le risorse, diciamo così, restanti. Ad oggi i tempi sono purtroppo come tutte le infrastrutture, anche quelle che noi riteniamo prioritarie, insomma si parla di tempi davvero troppo lunghi, ormai sono 20 anni che si parla di Cispadana, noi abbiamo voluto dare una forte accelerata. Adesso dobbiamo produrre probabilmente entro il 2016 il piano economico finanziario dell'opera e poi dopo il pronunciamento del CIPE il nostro obiettivo è quello di inaugurare proprio l'opera, cioè cantieramento entro il mandato della Giunta Bonaccini. Quella che avete sentito è la voce di Isabelle Maître di FTNR, in Francia una delle associazioni più rappresentative degli autotrasportatori. Parla di cabotaggio abusivo e di dumping sociale, due fenomeni collegati che stanno condizionando il sistema logistico di tutta Europa, determinando un mercato selvaggio dominato dalla concorrenza sleale praticata in particolare dai vettori dell'est europeo. E questo sarà il tema dello speciale di di hashtag autotrasporti in onda stasera a partire dalle 22.30. Racconti, testimonianze, commenti dall'Italia e dall'estero su un fenomeno che sfioriamo quotidianamente lungo le nostre strade. Per il momento mi fermo qui, noi ci risentiamo quindi stasera. Grazie per l'attenzione. Da Andrea Ferro, buon pomeriggio. Hashtag autotrasporti. In collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori.